La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Puntata di fine aprile, siamo arrivati anche a questa data che segna l'ingresso nel mese del Festival di Cannes, che segna però anche ancora un momento di grande intensità nelle uscite cinematografiche. Un saluto da Franco D'Assisi, per la prossima ora staremo insieme a parlare di cinema, come sempre, come ogni sabato qui su Radio 24, per parlare di cinema in sala e per parlarne con grandi ospiti. Davvero una puntata speciale, io vi dico subito che avremo Gianni Amelio, avremo Daniele Di Gennaro, produttore del film La Guerra dei Cafoni, parleremo col direttore del Trento Film Festival, Sergio Fant, e soprattutto fra pochissimo ascoltiamo anche Luca Belvaux, il regista di Chenu, A casa nostra, il film con cui vogliamo cominciare questa nostra puntata, un film che arriva dalla Francia e dal Belgio, dobbiamo dire, per parlare di una situazione che è una situazione politica che, come dire, sta interessando tutti i paesi, soprattutto dell'Europa occidentale, ma non solo. Guardate quello che è successo negli Stati Uniti con Trump, ovvero l'avanzata di quelli che vengono definiti i populismi e l'avanzata delle destre, appunto, per su parole d'ordine che sono quelle, appunto, dell'opposizione a una governance, chiamiamola così, del tema dell'immigrazione e di alcuni temi sociali. Della crescente povertà, eccetera, che sicuramente è una governance che ha fatto molto discutere. Ci ha fatto un film Luca Belvaux con Émilie Duchesne, André Dussolier, appunto, si intitola Chenu, A casa nostra. Non ha mai lasciato il Nord, c'è nata, ci lavora, i suoi genitori sono nati lì, i suoi nonni, minatori, metallurgici, una ragazza semplice, coraggiosa, intelligente, la conoscono tutti e tutti le vogliono bene. Mi hanno incaricato di trovare un candidato per le comunali e ho pensato a te. Sarei in una lista del blocco patriottico. È qualcuno come te che le persone aspettano, una di loro. Ti sembra una fascista? Lei non è proprio la stessa cosa. E poi è una donna. E allora, queste sono le motivazioni per cui Pauline, che di mestiere fa l'infermiera professionale, persona molto scrupolosa, molto attenta ai bisogni della sua comunità, vive in un piccolo paese del nord della Francia, figlia di un operaio comunista, ormai settantenne, che ha vissuto la disillusione di quelli che erano i suoi ideali e il dissolvimento di questi ideali. Ebbene, Pauline a un certo punto viene intercettata da parte di un personaggio, di un notabile di questo paese, che ha su di lei una grande influenza, diciamo così, morale. Viene intercettata per essere convogliata in un partito chiaramente nel quale tutti riconoscono il Front National di Marine Le Pen, tanto per intenderci. Succede questa sorta di endorsement per via della purezza con la quale, dello sguardo di Pauline, del modo con il quale Pauline si rivolge alla società, e in questo senso la ragazza viene appunto conglobata in questo movimento nel quale lei comincia a credere in maniera sempre crescente, fino a quando gli eventi non diventeranno ingestibili anche da lei. Luca Belvaux riflette, senza fare sconti a nessuno, devo dire, in questo bel film, su questo tema, appunto, l'avanzata dei populismi, e su come ci siano responsabilità da parte di tutti. Tutte le anime di questo fronte sono sminuzzate, sono guardate da vicino. Il fidanzato di Pauline, che per esempio si rivela un pericoloso picchiatore, ma tenerissimo quando sta con Pauline e con suo figlio. Ecco, ci sono gli sguardi e c'è anche la critica. È un film che chiaramente ha portato qualche problemino in Francia, diciamo così, a Luca Belvaux, soprattutto grandi polemiche per quanto concerne il Front National di Marine Le Pen, che ha criticato, ha attaccato una guerra mediatica fortissima a Luca Belvaux. E noi l'abbiamo incontrato a Milano, Luca Belvaux, e gli abbiamo chiesto proprio cosa ci sia dietro questo movimento di, appunto, avanzata di questo tipo di partiti che sembra inesorabile in tutta Europa. Je crois qu'il y a que la raison principale c'est que le monde change trop vite. La verità è che il mondo cambia troppo in fretta. Le persone hanno paura di non riuscire ad adattarsi e di avere molto da perdere nella realizzazione della globalizzazione, e pensano che ciò che l'Europa è riuscita a costruire, un modello sociale di democrazia che più o meno funziona, si stia dissolvendo. Non sanno come salvare ciò che è stato conquistato negli ultimi 70 anni. Cercano risposte semplici, quando le risposte sono complicate, e credono di non poter cambiare il mondo, se non in tempi molto lunghi. Ecco, è la paura, credo. Voilà, c'est la peur, je pense. La protagonista del film non è una cattiva persona. Però si lascia trascinare in un gorgo infernale. È ignoranza, ingenuità? Cosa la porta a toccare questo livello? C'est une question très complexe en fait, avec plusieurs éléments. È una questione complicata in cui convergono diversi elementi. Il primo è che lei è priva di cultura politica. C'è stata una mancanza nella trasmissione della storia politica, perché la generazione del padre si è sentita tradita dalla politica e quindi ha ripiegato su se stessa e non l'ha mai superato. Quindi i giovani della generazione di Pauline hanno scoperto la politica in un'epoca in cui la sinistra democratica e la destra democratica proponevano praticamente le stesse soluzioni, che non hanno funzionato e che ancora non funzionano. Hanno l'impressione che l'unico modo per cambiare le cose sia quello di rivolgersi ai partiti di estrema destra, ai partiti populisti. Se lei fosse stata più solida dal punto di vista della consapevolezza politica, non avrebbe fatto quell'errore. In più ci sono delle motivazioni personali, individuali, di sofferenze. Pauline vive da sola, cresce da sola i figli, fa un mestiere che è una vocazione. Quando si sceglie di essere infermieri è perché si vogliono aiutare le persone. È già un impegno. E lei vorrebbe impegnarsi ancora di più per aiutare gli altri. Cerca di salvare il mondo da sola, di sostituirsi allo Stato, alla sicurezza sociale. Vorrebbe fare più di quanto le è possibile. È chiaramente perduta e la sola soluzione che le viene proposta è quella di impegnarsi nel partito. E siccome vorrebbe veramente fare qualcosa, arriva a negare, a rifiutarsi di vedere la parte oscura del partito, perché sono 20 anni che il partito nasconde questo suo aspetto e i suoi ideali di estrema destra. Come è stato preso il film dal pubblico francese? Sappiamo che a livello politico è stata una grande polemica, Marine Le Pen non l'ha presa proprio benissimo, diciamo, ma mi chiedo il pubblico francese, che tipo di reazione, che dibattito ha fatto scaturire questo film? Enfin, qui n'était pas vraiment une polémique d'ailleurs, qui était une attaque massive contre le film. Oui, c'était un peu la guerre. Più che di una polemica, si è trattato di un vero e proprio attacco, di una guerra. Il pubblico ha reagito bene. Questo genere di film ha già il suo seguito, ha quel che definiamo un pubblico già acquisito. Ma è interessante che le persone possano scoprire delle nuove cose, perché il film riassume in 2 ore tutto ciò che il partito vuole nascondere. Sono cose che si possono trovare facilmente sui giornali, se si vuole, ma nessuno vuole passare 6 mesi, come ho fatto io, ad informarsi negli archivi per trovare i vari fatti, i discorsi, per entrare in qualche modo nel discorso e nel funzionamento di questo partito del Fronte Nazionale. E quindi le persone hanno la possibilità di scoprire delle cose che già immaginavano, ma di cui non conoscevano la vera realtà. E donc les gens découvrent quelque chose qu'ils imaginaient mais dont ils ne connaissaient pas la vraie réalité. Sai, ho raccontato che quelli hanno di nuovo rubato da Robert. Chi sono quelli? Ho l'impressione che si debba cercare dalle parti del quartiere Léo Lagrange. Quelli sono francesi quanto te. Ah, questo poi è da vedere. Quel che è certo è che qualcuno lo è da molto più tempo. Voglio cambiare le cose, è un po' diverso. Se credi di cambiare con quella gente, tu lo sapevi? Certamente no. Non sarà contenta di sapere che l'ha sorvegliata. Non capisco quello che succede, non vedo più i miei figli, non posso più lavorare. E questo era Luca Bellevaux alla Rosa Purpura, il primo ospite di questa straordinaria puntata per Chenù a casa nostra. Linea alla viabilità, fra poco torniamo e subito sarà con noi Gianni Amelio. La Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea continua come preannunciato con La tenerezza di Gianni Amelio, fra poco con noi. Il film è nelle sale da qualche giorno e racconta la storia di un incontro fra due generazioni, forse anche più, e fra due anime a loro modo perse, che si incrociano sullo sfondo di una Napoli che ha anche degli sguardi, degli scorci e un immaginario diverso da quello che ci si potrebbe solitamente aspettare da un film ambientato a Napoli. La storia di Lorenzo, un avvocato, è stato un avvocato piuttosto famoso a Napoli, interpretato da uno straordinario Renato Carpentieri, che vive da solo in una casa bellissima e un giorno incontra la nuova vicina di casa che è arrivata lì per con la sua famiglia dal nord per un periodo probabilmente di lavoro del marito, interpretato da Elio Germano, la ragazza è Micaela Ramazzotti. Insomma, queste, soprattutto i personaggi di Micaela Ramazzotti e di Renato Carpentieri, si incontrano e pian pianino cominciano a scambiarsi qualcosa l'uno dell'altro, forse una paternità mancata da una parte, forse dei figli troppo distanti dall'altra, chissà, i due a un certo punto cominciano a essere abbastanza in simbiosi e a cambiare in qualche modo le proprie vite anche verso un momento che poi porterà, diciamo, delle difficoltà importanti da superare e sul quale chiaramente non vogliamo dirvi nulla. Ascoltiamo questa clip. Io non so a che cosa state pensando. È strano che uno se ne stia da solo, senza nessuno che si occupi di lui, che gli porti sulla spesa, che controlli se ha preso le medicine. Avanti, la dica quella brutta parola, badante. Per carità, me non ci ho pensato. Poi ognuno a casa sua fa quello che vuole, no? Questa non è casa mia. Perché? Sorrida. Di più. E quel sorriso arriva e noi invece accogliamo Gianni Amelio, che è in collegamento telefonico. Ciao Gianni. Buongiorno, buongiorno, ciao a tutti. Grazie per essere qui alla Rosa Purpurea. Dicevamo, un film che si intitola La tenerezza. È un valore questa tenerezza che abbiamo un po' perso nella nostra, nel nostro contemporaneo, nel nostro quotidiano. Siamo sempre più competitivi, sempre più con un muro che ci deve proteggere. E man mano che sono state più facili le comunicazioni, quelle che appunto avvengono attraverso gli strumenti tecnologici, social, eccetera, piano piano ci siamo costruiti sempre più un muro. È questo muro che cercano di sgretolare i tuoi due personaggi. Guarda, io penso che non potevi raccontare il film meglio di come l'hai raccontato e non potevi dire meglio queste parole per definire il titolo del film. Quindi ti ringrazio. Figurati. No, è vero, è vero, è vero. Viviamo tempi che ci hanno costretto, che ci costringono ogni giorno a creare queste barriere. Mi ricordo che mentre giravo, quindi parecchi mesi fa, Papa Francesco disse che la tenerezza dovrebbe essere una specie di comandamento per tutti noi, proprio perché ci rende più liberi, e rendendoci più liberi ci dà più forza, perché sia uomini che donne abbiamo paura della tenerezza. È un gesto che invece dovrebbe essere il primo da fare ogni giorno, ma non solamente verso la persona che ci ama, perché l'amore e la tenerezza sono due cose che possono anche viaggiare separate. Dico che la tenerezza è importante anche verso le persone strane, verso gli sconosciuti, perché abbiamo bisogno di abbattere quelle che tu definivi barriere, quelle che tu definivi muri che ci costruiamo per difenderci. Ecco, in questo hai scelto uno sfondo, che è quello di Napoli, che è una città, come dire, viva all'eccesso, irregolare all'eccesso, cioè una città dove in un certo senso è quasi, da un certo punto di vista, più facile mettere a nudo la propria anima, è quasi necessario, direi, no? Credo che i napoletani lo facciano tutti. Forse è difficile vivere a Napoli per chi non è nato a Napoli. E questo però è il fascino di chi scopre questa città. Io ho tratto questa storia molto liberamente da un libro ambientato a Napoli, però ho cambiato tante cose, ma non l'ambientazione, perché mi sembra che Napoli sia un'anima forte. Rosi, grande regista, Francesco Rosi, nato a Napoli, definiva Napoli il cuore del mondo. Ho capito che aveva ragione. Nel senso che a Napoli c'è tutto il contrario di tutto, che vive però in armonia. Quindi avevo molta voglia di sperimentare in una società come quella questo concetto di capire l'altro, di tendergli una mano, di fargli un sorriso, che poi è l'essenza di questo concetto, di questo titolo che chiamiamo tenerezza. Certo, e tra l'altro devo dire che in questo Renato Carpentieri è davvero straordinario, è il personaggio, secondo me, che ti si attacca addosso di questa di questo film ed è quello che ti insegna probabilmente qualcosa. Ma a proposito di attori, Gianni, abbiamo detto appunto della Micaela Ramazzotti, per la quale io ho un debole da sempre. Giovanna Mezzogiorno, bravissima invece nei panni di questa figlia, molto molto rigorosa, molto molto rigida, ma che ha qualcosa dentro chiaramente che deve sciogliersi. Ma vorrei dire una parola, farti dire una parola su Elio Germano, che recita tra l'altro il ruolo di un ragazzo veneto, con una perfetta anche inflessione linguistica, che ne fa un personaggio di una naturalezza incredibile. Ecco, come hai lavorato su questo aspetto? Io ho un metodo, che è quello di non fare imparare la parte, diciamo. Forse non tutti i registi lavorano in questo modo, ma io prima scelgo gli attori e poi costruisco sugli attori il personaggio con una grande libertà. E a proposito di Michela Ramazzotti, voglio dire, lei non ha mai voluto leggere una parola del copione. Mi ha detto: tu, se vuoi, la mattina mi dici quello che devo fare e io lo faccio. Voglio sentire dalla tua voce le battute che devo dire, poi se mi viene improvviso anche. E questa libertà è qualcosa che all'attore bisogna dare. Poi ogni attore va diretto in una maniera diversa. È chiaro, Giovanna è diversa da Michela, quindi l'approccio era differente tra di noi. Però una volta che si entra in un clima che il regista deve creare, insomma, è tutto la ricerca della verità quello che ci interessa, non la naturalezza, diciamo, ma la verità di quello che si rappresenta. Da questo punto di vista credo di aver avuto gli attori che volevo, gli attori che ho scelto per primi. Ecco, con Renato c'è un legame particolare perché lui ha debuttato con me in Porte Aperte e quindi ci siamo ritrovati dopo anni, ha fatto con me anche Il ladro di bambini. E finalmente gli ho fatto su misura un personaggio da protagonista assoluto. Vediamo se indovina. Voi siete figlio unico e voi tra fratelli e sorelle almeno 4-5. Magari 4-5. Sono orfanella, allevata da nonna e scappata di casa a 16 anni, sempre in giro per l'Italia, fino a quando non mi ha bloccato lui. L'ho bloccata. È stata la mia prima fidanzata. Questo non me l'avevi detto. Ancora? Non c'è bisogno mica di dire tutto. Gianni Amelio, La tenerezza nei cinema italiani. Grazie Gianni per essere stato qui con noi alla Rosa Purpurea. Grazie a voi, grazie a voi. E allora, siamo usciti da questo film, La tenerezza, sicuramente la proposta più importante in termini anche proprio di importanza del cast, del regista e tutto del nostro cinema italiano in questa settimana, e cominciamo a giocare insieme, e oggi giochiamo con questo film. In Indocina è caduto un Jumbo. E in dove è l'Indocina? Bisogna andare a Lugano e poi si va sempre dritto. Io penso che oggi ci sarà il record di partecipazioni, perché è impossibile non individuare subito dalla prima parola questo film. Allora, se l'avete indovinato e volete provare a vincere una delle due copie in DVD di nuovissima masterizzazione, quindi tutto bello, pulito, con contenuti speciali, eccetera, che sveleremo entro la fine di questa puntata, scriveteci alla rosapurpurea @radio24.it col titolo del film e il vostro indirizzo e provate a vincere una di queste due copie. Più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia. Allora andiamo avanti e salutiamo Boris Sollazzo, che è già in collegamento telefonico con noi. Ciao Boris. Salve Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, subito un film che cerchiamo di compattare in pochi minuti di parole, forse non ne merita neanche troppi di più, anche se è un'operazione che poteva essere molto interessante. Si intitola The Circle. Ti hanno assunto a The Circle. Ciao May, come stai? Jared sarà il tuo tutor. Quando ho iniziato ci ho messo settimane per capire, credimi, vai alla grande. May è con noi solo da pochi mesi, ma ha fatto subito grandi cose. Allora May, pensi che il tuo comportamento sia cambiato sapendo di essere osservata? Abbiamo sempre amato viaggiare, abbiamo visto un sacco di cose e ora la nostra realtà è filtrata da tutto questo. È un mondo di un futuro prossimo venturo nel quale Emma Watson, che è protagonista insieme a Tom Hanks di questo film, dalla campagna americana viene assunta in questo The Circle, in questa azienda che ha proprio la forma circolare, strutturale, una sorta di mondo a parte, un social che però ti segue fino veramente all'eccesso, e nel momento in cui la protagonista accetterà di diventare una sorta di cavia di un esperimento, cioè di essere visualizzata e spiata in ogni momento della giornata, le cose della sua vita e dei suoi affetti precipiteranno. Boris, è un film che secondo me è un po' un'occasione sprecata, perché il tema c'era tutto, raccontato come l'abbiamo raccontato sicuramente incuriosisce, perché cosa sei disposto a fare, quanto sei disposto a farti spiare è la grande domanda. Di fondo però alla fine questa cosa che è un po' The Truman Show, un po' Ed TV e un po' The Social Network perde secondo me soprattutto nella credibilità. C'è un tema di verosimiglianza e di credibilità che a un certo punto, a mio modo di vedere, vanifica un pochino anche l'effetto del film. Come la pensi tu? Più che futuro prossimo venturo potremmo dire futuro prossimo venuto, perché siamo già in una realtà del genere. The Circle, che viene tra l'altro da un bel bestseller molto efficace che ha avuto successo in tutto il mondo, con questo presente distopico mutuato dai social. Perché diciamo futuro prossimo venuto? Perché i campus come quello di The Circle, questa multinazionale, esistono già. Pensiamo a Google in Inghilterra, che ne ha uno simile, ma vale per tante altre multinazionali che hanno costruito queste factory in cui c'è tutto, dalla cucina etnica per ogni dipendente fino al pub interno all'azienda. E chiaramente The Circle è anche la personificazione, la materializzazione di quello che è il social, in particolare Facebook, cioè un luogo in quel caso non fisico, in questo caso sì, in cui tu deponi tutti i tuoi segreti, deponi tutta la tua privacy a disposizione di qualcuno che ne farà probabilmente un uso commerciale, ma comunque un uso arbitrario, si appropria di quei contenuti. E come dici tu, l'occasione è clamorosa, perché è davvero la possibilità di fare un film orwelliano di altissimo profilo. Lo è ancora di più al pensiero che comunque il cast è di alto livello. Pensiamo a Tom Hanks, che in una realtà come questa sicuramente poteva fare meglio ed era comunque adatto come viso, e pensiamo ad Emma Watson. Pensiamo anche alla storia, perché la protagonista è una precaria, la protagonista è una figlia di un padre con la sclerosi multipla, è una figlia della contemporaneità che vive il suo sogno, essere assunta da una multinazionale che tutti desiderano e trovare la propria realizzazione, e poi scopre che la cosa peggiore dei sogni è che si possono realizzare, e che quando si realizzano potrebbero non essere come li avevi immaginati, e scopre che deve sostanzialmente appaltare la propria vita. E qua è il casca l'asino, perché come dici tu non c'è il salto in avanti, il salto di qualità contenutistico, etico ed estetico, ma c'è invece una retromarcia. Da parte di chi racconta non c'è la volontà di demonizzare i social, ma neanche quella di fare una riflessione profonda su quello che è diventato questa società, sulla sua democrazia, sull'esigenza di trasparenza come dittatura assoluta, e sul fatto che poi la democrazia prevede sempre dei centri di potere a cui nessuno arriva, che sono oscuri, e diventa una pallida copia di The Truman Show, di cui non ha il carico melodrammatico, il carico emotivo, e di ETV, di cui non ha la corrosività. È davvero un blockbuster addomesticato, ed è ancora più delittuoso partendo dal presupposto che ciò che tratta è il tema di questi anni, e meritava molto più coraggio, e purtroppo a The Circle manca proprio questo coraggio, e diventa un thriller qualsiasi quando tutto doveva essere fuorché un thriller qualsiasi. E questo era The Circle. A questo punto pubblicità. Boris, resta con noi, perché fra poco dobbiamo parlare di quello che invece è il film che già sta pompando in testa alla classifica, I Guardiani della Galassia, volume 2. La rosa purpurea. Strano, c'è una flotta sovereign che si avvicina alle nostre spalle. Perché ci seguono? Forse perché Rocket ha rubato le batterie. Ciccio! Ti sei bevuto il cervello? Erano lì che dicevano rubaci. Questa è la tua difesa? No, e quella sacerdotessa non faceva altro che disprezzarci. Le serviva una lezione. È un peccato che i Sovereign non abbiano capito le tue intenzioni e vogliano ucciderti. Esatto. E allora avete sentito alcuni passaggi dei Guardiani della Galassia, volume 2, come si usava ai tempi delle audiocassette, no? Usciva anche del vinile, si usciva volume 1, volume 2, era il sequel. E allora questa volta, in onore anche di quegli anni 80, la cui musica tanto è importante e tanto ha pesato anche nel successo del primo Guardiani della Galassia, torna questo cinecomic davvero divertente, scanzonato, sorridente, e che devo ammettere uno di quelli che preferisco proprio per questa sua caratteristica. Ritroviamo questi personaggi così veramente scritti in maniera superba, da una bellissima Gamora, Zoe Saldana, a Drax, lo spietato Drax, l'irascibile Rocket con la voce originale di Bradley Cooper, il piccolo Groot tenerissimo, il legnetto che fa impazzire soprattutto i bambini, e per una storia che è una storia di ricerca del padre. In fondo, in queste avventure del secondo volume dei Guardiani della Galassia, sempre diretto da James Gunn, bisogna andare a cercare un padre, tra l'altro con apparizioni qua e là anche di Sylvester Stallone, che campeggia. Dicevo, bisogna andare a cercare un padre, Boris, che poi si rivela non essere esattamente quello che ci si aspettava. No, assolutamente non è mai con i Guardiani della Galassia, anche se sembra strano dire mai per una saga che per ora ha solo due capitoli, come ti aspetti con i Guardiani della Galassia, probabilmente perché ha il pregio e la forza di essere, adesso qualcuno rabbrividirà, in questa epoca molto più veloce, che si mangia l'immaginario in maniera molto più cannibale, quello che decenni fa è stato Guerre Stellari, cioè si prende un genere che è quello della fantascienza e si modella secondo un'originalità allo stesso tempo antica e modernissima. In questo caso si pigia fortissimo sul pedale dell'accelerazione, dell'ironia, dell'aspetto surreale e dell'aspetto immaginifico, e in questo forse c'è l'aspetto più lucassiano. I personaggi comprimari sono straordinariamente vitali anche come estetica, sono assolutamente spinti al massimo anche come fantasia, e dall'altra parte però anche sulla capacità di creare un universo narrativo davvero molto molto solido, nonostante ci siano tanti rami narrativi, tante piste narrative diverse. C'è la forza di un gruppo di attori su cui, dobbiamo essere sinceri, pochi avrebbero scommesso, sia per l'omogeneità sia per il valore oggettivo. Penso a uno come Chris Pratt, che non è proprio un attore che ci ha offerto performance indimenticabili in passato, e c'è però, a mio parere, la bravura straordinaria di un regista come James Gunn. Mi perdonerete il gioco di parole, è veramente uno che non sbaglia un colpo, anche se non è scritto Gunn come pistola ma Gunn con due N, e una sceneggiatura solidissima. In questo caso, tra l'altro, il sequel ha il pregio di non usare facili trucchetti. Qui siamo cronologicamente attaccati al primo capitolo, siamo nel pieno della fase 3 Marvel, in cui si cerca l'uscita dei blockbuster, dei Marvel movies, con una frequenza più frenetica, quasi fumettistica, anzi a livello di produzione è stato un problema giustificare questi 3 anni, si era annunciato con più velocità l'uscita del secondo capitolo, e c'è una freschezza narrativa e visiva straordinaria. Non era facile ripetere la felicità della narrazione del primo capitolo, perché lì c'era l'effetto sorpresa, lì c'era quel mondo che si sviluppava davanti ai tuoi occhi e che tu non ti aspettavi. È stato straordinariamente sorprendente il primo capitolo, quindi è un merito ancora maggiore il fatto che ci ritroviamo di fronte a un film che non solo non ha nulla da invidiare al primo capitolo, ma che è anche molto più maturo sotto tanti altri punti di vista. È una saga che secondo me si annuncia estremamente solida ed estremamente longeva, Abbiamo secondo me un nuovo Lucas in piccolo, che è appunto Gunn, e ci sarà da divertirsi per una volta. Il blockbuster e anche il film della settimana. Fa quello che ti pare, ma non premere questo pulsante. Innescherebbe direttamente la bomba e ci restiamo tutti secchi. Adesso ripeti quello che ho detto. Io sono Groot. No! Se premi quel pulsante ci lasciamo le penne. Riprova. Io sono Groot. No! Per Guardiani della Galassia noi salutiamo Boris Sollazzo. Appuntamento la prossima settimana. Ciao Boris. Alla prossima settimana e buon cinema. E siamo giunti allora al secondo momento gioco della nostra trasmissione. Vi abbiamo detto oggi record per forza, e allora se per caso non avete ancora indovinato il film misterioso, provateci adesso. Il cane del Sciur Giuseppe l'è entrato nel cortile di casa nostra, è corso dietro al gatto, l'ha preso e l'ha ammazzato. Cosa c'è da mangiare stasera? Coniglio. Ma è possibile che tutte le volte che muore un gatto tu mi cucini il coniglio? Straordinario, qui in redazione stavamo ridendo mentre sentivamo questa celebre battuta. Di che film, da che film è tratta, qual è il titolo, qual è il vostro indirizzo? Scrivete tutto alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Ci sono due DVD, nuovissime edizioni di questo film che vi aspettano. Il titolo lo sveleremo fra poco, prima della fine della trasmissione. Allora andiamo avanti, c'è un'altra proposta cinematografica della quale vogliamo parlarvi in questa settimana, un film che è uscito in maniera abbastanza massiccia in Puglia in questo weekend, lo potete vedere soprattutto voi amici pugliesi, ma dalla prossima settimana pian pianino risalirà lo stivale fino ad arrivare a Milano in una sorta di, come dire, battaglia dei mille contemporanea. Si intitola La guerra dei cafoni. La colpa è sua, Luca Via, soltanto sua! La colpa in guerra non esiste! Chi l'ha detta questa? Napoleone? Io. E lo sapevo benissimo che quella era una femmina. Cosa? Ma lo sapevo. Mi viene colpita lo stesso. È una femmina. Zitto tu, Merendi. In guerra non ci sono colpe. Non ci sono neanche i maschi e le femmine. Ci sono solo i cafoni. E allora avete sentito un passaggio della guerra dei cafoni. Torrematta, territorio assolutamente pugliese, della Puglia più vera, più selvaggia, quella che gravita intorno al Salento, per intenderci. È un posto in cui gli adulti sostanzialmente non esistono, e ogni estate, da anni, da secoli, da sempre, rivive la guerra fra i cafoni e i signori. Due bande, i figli degli umili da una parte e i figli dei ricchi dall'altra, con inevitabili commistioni fra gli uni e gli altri, e soprattutto con inevitabili scontri, forse per cercare alla fine la stessa cosa, ovvero se stessi e il proprio posto in questo mondo. È un film archetipo tratto da un romanzo archetipo, quello di Carlo D'Amicis, La guerra dei cafoni. È un film che segna anche l'esordio nella cinema di finzione per una casa editrice che è una casa editrice importante dell'ambiente, diciamo così, indipendente italiano, Minimum Fax, che con Minimum Fax Media adesso sbarca anche al cinema. Noi siamo in collegamento con Daniele Di Gennaro, che è l'editore di Minimum Fax ed è anche quindi il produttore di questo film. Ciao Daniele, benvenuto alla Rosa Purpurea. Eccomi. Eccoti. Allora, raccontaci un po' perché questo vostro romanzo ti ha fatto innamorare a livello cinematografico così tanto. Guarda, nel 2008 uscì La guerra dei cafoni di Carlo D'Amicis, un romanzo che mi colpì moltissimo per questa capacità, per questa lingua e questa forza narrativa di mettere in scena la lotta di classe scoperta dai bambini, vissuta da minorenni, che è un'esperienza che abbiamo avuto tutti, l'ha avuta mio padre ai tempi della guerra, l'ho avuta io in vacanza, quando per simpatia, per affinità, il conflitto latente fra i signori cafoni c'è sempre stato, c'è e continuerà, perché è una cosa latente. Questo romanzo ha avuto una vita lunga, perché ha avuto anche un reading concerto teatrale con Sergio Rubini. La forza del testo ci dimostrò tante volte di essere potente. E quindi abbiamo, con Minimum Fax Media, che già produceva documentari e programmi per la TV, per Sky, per Rai, da anni, e abbiamo cominciato il cantiere del lungometraggio e siamo arrivati a questo esordio che sta avendo delle belle reazioni in tutto il mondo, in tanti festival. Ecco, un cast che al di là della comparsata, diciamo proprio di un vero cameo di Claudio Santamaria all'inizio, e invece un ruolo, l'unico adulto forse che si vede in giro, che è il barista Ernesto Maillot, ecco, è fatto di bambini. Di bambini che gravitano attorno anche a un ambiente linguistico che sta sospeso fra il salentino, il sudbarese e il dialetto delle Murge, ma che hanno proprio in questa lingua forte una verità che al film arriva, allo spettatore. Arriva. Come hai lavorato su un cast non facile da mettere insieme? Guarda, 1100 provini per trovarne 24 buoni e spontanei, non avevano mai recitato, presi nelle scuole calcio, nei riformatori, una guerra fra bande vere, c'è nella guerra dei cafoni, e loro hanno dimostrato con il loro dialetto, diversi dialetti, una polifonia che abbiamo voluto perché non perdessero naturalezza nell'espressione. Arrivano a darti proprio lo schiaffo della subitaneità che nel conflitto è l'unità di misura. Quindi sia le ragazze che i ragazzi lì hanno questa capacità di mettere in scena qualcosa che vivono tutti i giorni. Ecco, Daniele, c'è un aspetto appunto che è interessante. Questa ambientazione del 75 ne fa anche un racconto su quello che succedeva negli anni di piombo italiani. Ora non vuole essere un film su quello, però c'è anche, come dire, una sorta di miniatura di quello che è stato il grande dramma della stagione del terrorismo in Italia. Questo è l'obiettivo colto del romanzo di Caro D'Amicis e del film, cioè questa cosa qua. Noi abbiamo vissuto di rimbalzo, in maniera diretta o indiretta, nelle grandi città questa esperienza. La lotta di classe è qualcosa di molto più antico, e in quelle terre, in un rapporto dove la natura è schiacciante, arriva lo stesso quella ragione profonda di conflitto e anche di solidarietà. Tu considera che è una storia shakespeariana d'amore, quella tra Mela, la bella dei Cafoni, e il capo dei signori, Francisco Marigno, che si mette il nome di un terzino del Brasile dell'epoca, e è una cosa comunque che ha quel tipo di riflesso, cioè riporta quell'esperienza e quella vicenda umana che è comunque eterna da quello che so e da quello che vedo. Ne ricordiamo dove è possibile vedere questo film nei prossimi giorni, perché abbiamo detto in Puglia è partito molto bene. Partirà il 3, c'è un'anteprima al Fratelli Max di Torino, il 4 al Fiamma e al Madison a Roma, il 5 al Galliera di Bologna, il 6 al Beltrade di Milano, il 10 al Heart di Napoli. E quindi, insomma, sul sito ovviamente cercate La Guerra dei Cafoni, trovate tutte queste informazioni, ma insomma, Roma, Bologna, Milano, Napoli, Torino, nei prossimi giorni accoglieranno questo film, e quindi gli amici della Rosa Purpurea potranno andare a vedere con i loro occhi, perché si tratta di un piccolo film veramente molto molto ben fatto e molto riuscito. Grazie a Daniele Di Gennaro di Minimum Fax Media, in bocca al lupo. Grazie, crepi. E allora linea alla viabilità, fra poco torniamo insieme, parliamo del Festival di Trento, il Festival del Cinema di Montagna, e poi tutto il cinema da vedere in casa, e sveleremo il film misterioso di oggi. La Rosa Purpurea. Quarta parte della Rosa Purpurea, prima di passare al cinema da vedere in casa, le nostre visioni domestiche con gli amici di Film TV, diamo un'occhiata a un festival che si apre proprio in questo weekend. Stiamo parlando del Trento Film Festival, 65esima edizione, che ne fa uno dei festival più antichi d'Italia, insieme a quello di Venezia. Fino al 7 maggio il cinema di montagna, il cinema che ha la montagna come sfondo, come protagonista, come oggetto, è protagonista appunto di questo festival sempre molto partecipato, molto molto ricco di film. Ne abbiamo parlato per presentarlo insieme a Sergio Fant, che è il direttore artistico del Trento Film Festival. Sì, Trento è una storia strana, perché come hai detto tu è nato pochi anni dopo il Festival di Venezia, ma allora già l'idea di fare un festival di cinema era un'idea abbastanza originale. L'idea di fare un festival di cinema su un unico argomento, su un unico tema, io credo sia stato il primo al mondo. Oggi ci sono festival di cinema su qualsiasi argomento. momento, però pensare che 65 anni fa qualcuno ha avuto l'idea di fare un festival su un tema così specifico, così preciso come la montagna, è un'idea che rimane all'origine del festival questa carica estremamente originale, secondo me, che è quella che noi cerchiamo di reinterpretare tutti gli anni. Ed è vero, come mi dicono magari persone che mi chiedono, ma com'è possibile che ogni anno su un argomento sempre lo stesso trovate modo di fare un programma che ormai è cresciuto, quest'anno abbiamo 120 film in programmazione. E secondo me è proprio invece questa limitazione iniziale che in realtà, come spesso succede, da scatena la fantasia, nel senso che, come raccontavo anche in conferenza stampa presentando il festival, dove in quale altro festival puoi trovare un film horror splatter e un video d'artista sperimentale uno proiettato dopo l'altro. Trento è questo strano festival per cui, con al centro la montagna un po' come punto di osservazione, questa, in realtà da una cima della montagna è l'unico posto da cui puoi guardare il mondo a 360 gradi. Di solito la vista è sempre, come dire, preclusa su qualche prospettiva. Invece quando arrivi in cima, un po' come dire, questa metafora un po' che è al centro del nostro lavoro, quando arrivi in cima puoi guardare in qualsiasi direzione, ed è quello che facciamo noi con la montagna, come hai detto tu, la montagna avventurosa, epica, ma la montagna al centro di questioni di estrema attualità, la montagna come pura immagine, quindi una ricerca puramente visiva, come racconto, la montagna è un teatro di storie straordinarie da scoprire, da raccontare. Per cui veramente, una volta che ci siamo dati questo tema, in realtà siamo liberissimi poi di creare un festival che va in mille direzioni diverse. E allora, Trento Film Festival fino al 7 maggio in quel di Trento, appunto. Andiamo avanti e passiamo alle visioni domestiche, cominciando con il film misterioso della settimana scorsa. Falliremo al 26%. Quanto manca? Non lo so, di sicuro di qua non sono mai passato, ma manca poco, lo so. Beh, adesso siamo al 35% di fallimento. Non lo voglio sapere, grazie. Posso capirlo. E allora, avevamo giocato con Rogue One, lo spin-off della saga di Guerre Stellari, che ha tenuto caldo il pubblico fra capitolo 7 e capitolo 8, e che è stato uno dei film che hanno contrassegnato l'inizio di questa stagione. Adesso esce in un video con soprattutto le edizioni Blu-ray, che esaltano al massimo la definizione, la qualità filmica di questo lavoro. Ne parliamo con Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio! Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, parliamo dello spin-off della terza trilogia di Star Wars, diretto da un talento del cinema action e fantascientifico che si chiama Gareth Edwards, di cui, se posso, vi consiglio di recuperare un film che si chiama Monsters, oltre al suo Godzilla, che comunque è un blockbuster decisamente notevole. Questo è il film veramente che porta sul serio la guerra nel mondo delle guerre stellari. Un film che sembra un misto tra quella sporca dozzina, il mucchio selvaggio e la saga classica di Lucas. Ovvio che poi sia diventato un successo planetario, la Disney lo fa uscire in versione, in triplice versione, DVD, Blu-ray e Blu-ray 3D. I dischi, soprattutto quello Blu-ray, hanno un riversamento perfetto che sa mantenere le cromie da vecchio film di guerra che vi dicevo, una dinamica d'immagine che non soffre assolutamente le tante scene d'azione. È ricchissimo anche il comparto extra, con interviste ad attori e creatori, approfondimenti sui personaggi e focus su questo film che è una scommessa ardita, perché è nato per essere avanguardia tecnologica ma coerente con una saga quarantennale e doveva essere in grado di soddisfare i fan esigentissimi ma anche di sorprenderli. Ci è riuscito. E allora ricordiamo che i vincitori del Blu-ray di Rogue One sono Riccardo Morotti di Prato e Carmine Calò di Milano. Saranno loro a ricevere questo Blu-ray, che era il nostro game della scorsa settimana. Tra poco vi svegliamo invece il film misterioso, poco misterioso, di oggi. Giulio, prima un'occhiata ai palinsesti TV, cominciando con domenica 30 aprile, dove su Cielo alle 21.15 c'è Drive. Sì, un uomo divide la sua vita diurna tra il lavoro di meccanico e quello di stuntman, e in quella notturna si trasforma in un artista per la mala. Questo è il protagonista del film che ha consacrato Nicholas Winding Refn come autore. È un omaggio a Driver, l'imprendibile di Walter Hill, ed è sorretto da un'idea di montaggio esaltante, un'opera stilizzata, plastica, che in ogni minuto sa di essere e di diventare già un cult. film che fonde romanticismo, violenza, gioca con il tempo e lo dilata oltre misura e finisce per assomigliare a uno strano incontro, quello tra il cinema di serie B degli anni 90 e uno dei tanti capolavori del grande maestro di polare Jean-Pierre Melville. E quindi questo è Drive su Cielo alle 21.15 di domenica 30 aprile. Lunedì 1 maggio invece facciamo un bel recupero con La notte dell'aquila di Sturges su Gold, su 7 Gold alle 21.10. Bel recupero, è un film anche tutto sommato sempre sottovalutato e dimenticato. Liberato Mussolini dal Gran Sasso, Hitler si propone di uccidere il primo ministro britannico Churchill. Alcuni uomini vengono selezionati per l'impresa, paracadutati in Inghilterra, scoperti sul suolo nemico si disperdono, ma uno di loro comunque tenta di scovare l'obiettivo. Sturges gira con un'imparzialità di sguardo che mette veramente alla prova l'etica dello spettatore e garantisce a questa storia bellica un rigore veramente oggi poco rintracciabile. Ogni mossa del film è calibrata, motivata, preparata a tavolino da una sceneggiatura che un tempo si diceva ad orologeria, ed è un film che ha una magnifica alternanza tra registro bellico, spionistico, thriller e perfino grottesco. E allora l'appuntamento con La notte dell'aquila su 7 Gold alle 21.10 di lunedì 1 maggio. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Una breve segnalazione per un musical, Elvis the Musical, in anteprima assoluta dal 5 al 14 maggio al Teatro Nuovo di Milano, con anche nel foyer una mostra bellissima di oggetti e di memorabilia di Elvis Presley. Quindi non perdetevi questa grande possibilità. E io vi ricordo che il film con il quale abbiamo giocato oggi era Ragazzo di Campagna con Renato Pozzetto, I Vincitori, fra 7 giorni qui come sempre il sabato alle 18 alla Rosa Purpurea, tutto il cinema che c'è.